快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是古月。今天带来的是普契尼的三幕歌剧《西部女郎》。19世纪美国金矿开发，在加利福尼亚有一位美丽的姑娘 Mini 开了一家酒吧。当地的警官兰斯向 Mini 求爱，遭到拒绝，但 Mini 却暗恋着强盗约翰逊。他和约翰逊定下了约会时间，这时候兰斯率领众淘金者出发追捕强盗拉马瑞斯。不久后兰斯回到酒馆，他向 Mini 揭露约翰逊和拉马瑞斯原本就是同一个人。 Mini 了解到约翰逊的真面目时，打算和对方断交，但当约翰逊中枪受伤走投无路时， Mini 又将他藏身于顶楼，最终被捉要处死。而众淘金者和 Lance 在 Mini 的诉说下同意释放约翰逊，一对有情人从此走向新的生活。接下来就请欣赏内贝尔特·多明戈·米尔奈斯的演唱，祖宾·梅塔指挥英国皇家爱乐乐团演出的歌剧《西部女郎》。

Sua carta. Sopra un cuore come si porta un fiore, non toccherà più carte. E questo è il segno, se s'attardassi a togliere ogni catalo. Domani al campo tu spargi la voce. No! Ragazzi, siete buoni! Dai, vai, vieni qua, via, dai, via! Un poker, Nick, gettoni, sceriffo, e là! Ragazzi, fate largo, salute! A Mr. Ashby dell'agenzia Wells Fargo. Nick, portami da bere. Come stava? del bandito. Da tre mesi l'ha posto, non è molto nascosto. Dico che ruba come un gran signore. Le spagnuolo, la banda di ladri a cui comanda e messicana. Che taccia gagliarda sputa pronta tutto. State in guardia. Io mi sdraio, sono stanco. Oh, lo salute. A tutti buonanotte. Cosa c'è? A Frenini. Mrs. Rance, no, Anta di Cinele, e si vede tutto di te, ragazzo, e questi che te lavora, mi compagnisco, mi compagni, e sono i tempi, e sono se mai vede giù, i tempi. Perché chi l'auguri le offese degli ubriachi e capisca che Reganias, Auroras, Eurebas, Se li scegliete voi, la qualità non conta nulla, ognuno avrà per me il profumo dell'amante che li tocca. Mi prego andate in giro, ogni vostro sorriso è una consumazione. Questi sono omini è un'erba che fa il morire. la posta, la posta, la posta, la posta. Però, ragazzi, state attenti. Se è visto sul sentiero un ceffo di meticcio, Postiglione, conosci certa Nina, Nina Miguel Torena. You've been the star, I'm vivo, vivo, giovane. Un sereno che fa consolo di me. Amo per farsi più l'angolo, mi dica le ragazze. Sceriffo, questa sera ora mi risallaccio. Come l'avventuriere mi dici che sa il cuore del bandito e che stanotte a mezzanotte vada alle palme. Quella Miguel Torrena è una canaglia, aspi non vi fidate. Vedete di donne innamorate, ad ogni modo ranz, tengo l'invito. Perfine, papagallo, siamo lì. Scusa, mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. Mi scuserà tutti. E anche nonna se n'è andata. C'è fuori uno straniero? Non l'ho mai visto. Sembra di San Francisco. Ma chi è sto whisky e acqua? Whisky e acqua? Chi sono questi mostri? C'è quello che gli ho detto. Ma la polca si deve il whisky schietto. Sopra un altro mare. Andavate a trovare in nido.

dentro che balla come il pan di Menofino giù con la sacrolamento. Sei con Ramirez! Buon fuggito lo diamo! Se volete vi porto sulla sua traccia! Questo sudicio ladro ci canna! No, non mi inganna! Conosci il nascondiglio? È poco più d'un miglio alla Madonna Cagnara! Vi mostrerò la strada, i nomi di mia madre, Maria Saltata, giuro che non vi inganno, se volete vi porto. Li pianterò nel dorso la mia navata. Si va, e hanno volato, avremo la tormenta. Legata! E il buon colpo si tenta. A cavallo, non è preso e nel ballo. Dove si va? Dove si va? Si segue la Rines. E loro gli occhi divini bastano a guardare te loro. Alto ardiente. Lasciate prendere per sfidarli, vi seguono nel bosco i nostri. Questo addreggia un fischio, se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Alla via! Thank you. Questo fischio In quel barile, Johnson, c'è un tesoro. Ci ripongono loro ragazzi. E vi lasciano così. Ogni notte io rimango qui a vegliarlo. A quello con me uno. Stanotte sto a darvi l'ultimo saluto.